A bordo campo di Dario Ricci. Manca davvero poco, manca sempre meno all'Olimpiade di Londra 2012, ce lo ricorda anche Survival, la canzone ufficiale dei Muse, che è di fatto l'inno di Londra 2012. Ebbene, a Londra buona parte del nostro medagliere, per essere rimpinguato, punta forte sulla nazionale di pugilato. A Pechino è stata, lo ricorderete tutti, un'edizione eccezionale, un oro, un argento, un bronzo rispettivamente con Cammarelle, Clemente Russo e Picardi. Ebbene, proveremo a fare addirittura meglio a Londra, perché Cammarelle, Russo, lo stesso Picardi e poi gli altri qualificati, Cappai, Parrinello, Valentino, la sorpresa, Mangiacapre, sono tra i grandi favoriti dei vari tornei che si disputeranno sul ring di Londra, dove tra l'altro esordirà, anzi grande sorpresa nel menù olimpico, anche la box femminile. Ma della box al maschile parliamo oggi, perché purtroppo non ci sono azzurre qualificate. E allora subito nostro ospite Francesco Damiani, il commissario tecnico azzurro. Ben trovato Francesco. Beh, davvero davvero difficile far meglio di quanto è accaduto a Pechino, vero? Era più facile a Pechino, perché venivamo da un bronzo di Atene, quindi quando si viene da un'Olimpiade che si è vinto tanto, poi quella che viene dopo diventa sempre più difficile eguagliare. Però, ripeto, io sono molto contento dei miei ragazzi, stanno lavorando molto bene, abbiamo qualche problema, diciamo, ma è solo per questo caldo, ma il resto sta procedendo bene, abbiamo sparring buoni. Sono fiducioso, sono veramente, posso contare su 7 ragazzi che non faranno un passo indietro sul ring di Londra. Questo lo posso dire con orgoglio. Quali possono essere concretamente le nostre speranze di medaglia? Beh, io egoisticamente vorrei che fossero tutti da medaglia, però questo so che non sarà possibile, ci vorrà un po' di fortuna nei sorteggi, un po' di fortuna anche che i ragazzi siano a posto senza nessun problema, e credo che abbiamo alcune categorie come il 91, il 91 più, il 60 con Valentino, con grandi opportunità. Gli altri sono tutti ragazzi che possono mirare con grande serenità il podio basso, però diciamo che insomma sia Cammarelle che Russo che Valentino possono aggiungere, potrebbero fare diventare di un colore bello la loro medaglia, questo è il mio pensiero. Assolutamente, non diciamolo neppure di quel colore, perché la scaramanzia è d'obbligo. C'è anche questo Vincenzo Mangiacapre, che si presenta un po' come il volto nuovo di questa spedizione. No? Ma io non l'ho citato né lui né Cappai proprio per quello, capito? Perché la sorpresa spero sempre che venga fuori da un non conosciuto. Questa è la mia speranza. Sono tutti, ripeto, grandi, grandi. L'ho detto all'inizio, io vorrei che tutti e 7, e hanno possibilità, veramente sono grandi interpreti di questo sport. Però sai, ci sono tanti fattori che devono combaciare. Mangiacapre è un gran bel pugile, fantasioso, con grande fantasia nel suo esprimere il pugilato, però è alla prima Olimpiadi e a volte può essere anche questo che non ti fa esprimere al meglio, come può succedere nella parte inversa. Senti, ti chiedo ancora due domande. Una è un'Olimpiade che in qualche modo è la prima dopo la morte di Teofilo Stevenson, no? Uno che ha scritto una leggenda, la leggenda delle Olimpiadi sul ring, e che tu hai avuto anche modo di battere, no? Certo. Beh, guarda, devo dirti con grande serenità, cioè è un po' di rammarico che un po' della mia storia se ne va con la morte di Teofilo, anche perché io sono salito, come si dice, alla ribalta proprio con la vittoria sua ai campionati del mondo nell'82, e quindi poi da lì è stato tutto un crescendo, quindi io con lui sono rimasto molto amico, ci siamo visti anche recentemente, un paio di anni, nel 2005 è venuto con la squadra cubana qui, e mi ha dato una grande soddisfazione, ripeto, era campione nel pugilato, ma anche come persona era un uomo straordinario. Ci siamo rivisti in Gazzetta dello Sport, ci siamo rivisti l'incontro mio e il suo dell'82, e alla fine lui lo ha guardato con molto interesse, non l'aveva mai rivisto, l'ha guardato, finito l'incontro, ha detto: ma lo sai che avevo proprio perso? Questo per me è stato un complimento, cioè è stato più che la vittoria, capito? Per me era un mito, e questo era Teofilo Stevenson, insomma. È sicuramente un ricordo che fa venire i brividi. Un'ultima cosa ti chiedo, come è cambiato da Pechino a Londra il mondo del pugilato internazionale, e cosa dobbiamo aspettarci di nuovo? Io ho notato che i paesi, le nazionali estere sono cresciuti tutti, sono cambiati, siamo andati ai campionati del mondo, in questi 4 anni abbiamo fatto i campionati del mondo, campionati, e non ho visto nelle nazionali, diciamo, più forti come Ucraina, come Russia, come le stesse persone, sono cambiati, si sono rinnovati. Ad esempio, agli ultimi mondiali a Baku, 4 campioni del mondo dell'Ucraina, che nell'edizione precedente non erano arrivati neanche, forse una finalista con Cambarelle. Per dirti che purtroppo noi paghiamo questo fatto che abbiamo poco ricambio, cioè mentre nelle altre nazionali cambia 8-9 pugili su 10, noi ne cambiamo 2, 1, 2, gli altri sono sempre questi, quindi è questa la cosa preoccupante. Certo, abbiamo uomini di classe, per carità, perché Cambarelle, Russo, Valentino, Riccardi non si discutono, però noi andiamo contro gente nuova e diventa sempre più difficile poter restare in alto. Ecco, questa è Pechino. Io prendo spunto della presentazione della squadra dal Presidente della Repubblica, e il Presidente del CONI Petrucci ribadiva che sarà un'Olimpiade dura in tutti gli sport, che il rinnovamento è la base di tutte le squadre olimpiche, e questo è un dato di fatto. Come dar torto a Francesco Damiani, che ringraziamo per essere stato nostro ospite oggi, ma gli azzurri sono belli carichi e pronto a dar battaglia sul ring londinese. Allora, ci ha raggiunto in linea Roberto Cammarelle, campione olimpico nei super massimi a Pechino contro il campione di casa Zhang Zilei, e che a Londra cercherà il bis. Benvenuto Roberto a bordo campo, immagino tanta voglia di entrare nella storia olimpica con un bis da leggenda, vero Roberto? Assolutamente, voglio riconfermarmi campione olimpico, perché è troppo bello essere campioni olimpici, e l'ho provato a Pechino e vorrei riprovarlo a Londra. Sono una delle punte però della squadra, perché quest'anno, ormai come quest'anno, sono tutti forti. Senti, ti chiedo condizioni fisiche, perché è stato un quadriennio pieno di vittorie ma anche di qualche problemino che penso abbia in qualche modo condizionato il lavoro in questi 4 anni. Come arrivi a Londra 2012? Ci arrivo al 100% di testa, e quindi è già una gran cosa, e diciamo ancora manca un mesetto prima del mio primo combattimento, e sono all'80%, punto di arrivare al 100% al primo match. Direi che insomma la tabella di marcia è quella ideale. Quali invece possono essere e quali saranno soprattutto i tuoi rivali sulla strada verso questo bis? Gli avversari sono sempre più o meno gli stessi, ci sarà l'azerbaigiano campione del mondo, che sarà l'uomo da battere oltre a me, poi c'è Cuba, che è una grande tradizione, la Russia è una grande tradizione, e l'inglese chi gioca in casa. Ecco, diciamo che siamo più o meno noi questi che si giocheranno la medaglia, secondo me. Ecco, senti, qualche timore per le giurie, per la qualità delle giurie, che tante volte, troppo spesso, ha condizionato poi l'esito dei tornei olimpici? Ma in realtà non si può partire con l'idea, speriamo che siamo convinti che non ci ruberanno niente, poi a garanzia abbiamo il nostro presidente federale che è anche capo della commissione tecnica. Qual è l'immagine, il fotogramma di Pechino che ti porterai in testa, ti terrai ben fisso in testa per spingerti verso questo bis? Ovvio, gli ultimi 10 secondi dell'incontro della quarta ripresa dove ho vinto per KO e poi diciamo la festa sugli spalti dei pochi italiani in mezzo a una marea di cinesi che comunque mi hanno applaudito. Vorrei riprovare la stessa emozione con il pubblico di casa che mi applaude. Eh sì, c'è gusto doppio a vincerla in trasferta, la medaglia d'oro olimpica. Roberto, ti capiamo bene, grazie per essere stato nostro ospite. Chiudiamo questa rapidissima carrellata a bordo ring con quella che si preannuncia essere una delle sorprese della squadra azzurra, Vincenzo Mangiacapre, categoria 64 kg. Vincenzo, benvenuto in linea. Beh, prima Olimpiade, con quale speranza l'affronti? Beh, sicuramente con la speranza di andare bene, vengo da un bronzo europeo, un bronzo mondiale, non so se è poco. Direi di no. E pesa di più l'emozione, la responsabilità della prima Olimpiade, oppure il fatto di essere all'esordio ti dà quella leggerezza di partenza che può far sognare in grande? No, la mia qualità è quella di stare un po' tranquillo, cioè non ho ancora tanto stress addosso, ora comunque i miei compagni con a capo Roberto Cammarelli, il nostro capitano, mi fanno stare molto tranquilli, mi hanno preso nel loro gruppo molto molto, ma veramente mi trattano come un fratello minore. Quindi insomma Clemente Russo per fratello maggiore. Quindi insomma stai proprio in famiglia. Senti, ennesimo rappresentante della grande scuola campana della box italiana, ti senti anche un po' ambasciatore del sud? Sicuramente sì, però comunque io non mi voglio sentire ambasciatore del sud, voglio sentire diciamo un pugile all'altezza di dimostrare le mie qualità. Rivali in questa corsa al podio, Vincenzo? Il brasiliano è bravo, il mongolo è anche abbastanza bravo, però comunque se sono in forma io gli sfondiamo la testa. Senti, descriviti un po' dal punto di vista tecnico. Sono un ragazzo molto ballerino sul ring, nel senso mi muovo tanto. Santino nei movimenti di gambe e gioco sulla velocità. Qual è il primo pensiero che ti viene pensando a Londra 2012, la cerimonia di inaugurazione? Qual è la prima emozione che conti di vivere e come pensi di viverla? Tutti quanti mi hanno parlato molto bene di questa cerimonia allo stadio, 80.000 persone, molto bello, molto emozionante. Mi hanno detto anche che c'è una grande fatica da fare perché comunque sono 10-12 ore all'Olimpiade al caldo allo stadio olimpico, però comunque non vedo l'ora di starci perché questa emozione la voglio provare. Olimpiadi di Londra 2012, certo, ma anche e soprattutto direi Paralimpiadi. Dal 29 agosto al 9 settembre Londra ospiterà anche le Paralimpiadi e direi appuntamento che sta diventando sempre più importante e significativo, e oggi ne parliamo con un ospite d'eccezione che punta ad essere protagonista nel ciclismo a Londra. Benvenuto Fabrizio Macchi a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a tutti, buona giornata. Allora Fabrizio, direi che si pedala velocemente verso Londra perché ogni giorno è prezioso per allenamenti e preparazioni. A che punto siamo, a che punto sei soprattutto? Ma sono a buon punto, diciamo che abbiamo fatto le ultime gare di Coppa del Mondo, la sensazione era buona, adesso arriva il momento cruciale, quello dove non si può sbagliare più nulla. Quindi bisogna fare tra virgolette sul serio. E senti, dal punto di vista della preparazione, come stai lavorando? Londra ha delle peculiarità specifiche rispetto alle quali stai adattando la tua preparazione, oppure è semplicemente una tappa importante e quindi diciamo i ritmi di allenamento e le schede di allenamento non cambiano poi più di tanto? No, diciamo che io faccio la pista e la cronometro su strada. Per quanto riguarda la pista, il velodromo sarà un velodromo molto veloce. Abbiamo fatto degli ottimi lavori in Galleria del Vento al Politecnico di Milano, dove ho potuto sistemare bene a livello aerodinamico i miei body e il casco. Per quanto riguarda invece il circuito, è un circuito che per me potrebbe andare bene, è vallonato, molto nervoso,